Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. La nuova tassa sui condizionatori ha creato panico nella rete in Italia. Dopo qualche ora poi è giunta la smentita. La tassa non esiste. All'origine del fraintendimento c'è una normativa europea. Non esiste nessuna tassa sui condizionatori, nessuna famiglia. Secondo l'allarme subito rimbalzato in rete e lanciato anche dalle associazioni dei consumatori, sarà costretta a pagare 200 euro all'anno. All'origine della bufala virale, una normativa europea sulla tutela dell'ambiente, recepita lo scorso anno dagli Stati membri, Italia inclusa, che prevede la creazione di un unico libretto di manutenzione per caldaie e climatizzatori, ma solo per i sistemi di certe dimensioni, quindi aziendali, non familiari. Una normativa nota da tempo per installatori e aziende di climatizzazione, perché prevede controlli e quindi costi ogni 4 anni. Non è la prima volta che una normativa europea diventa in rete una tassa del governo, oppure il capro espiatorio di responsabilità difficili da rintracciare, vedi alla voce dimensione vongole nell'Adriatico. Il diritto comunitario e le sue complicazioni certo non aiutano, ma nemmeno un facile populismo antieuropeista. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo ora della sfida del governo italiano in materia fiscale, che passa certamente anche dall'Europa. Una volta annunciata, la sfida di Renzi sul fisco passa necessariamente da Bruxelles. Il Premier deve trovare soldi per coprire il taglio delle tasse senza far scattare l'aumento di IVA e accise e rimanendo nei vincoli europei. Per farlo dovrà probabilmente chiedere ulteriore flessibilità all'Europa, che da una parte sembra guardare più di buon occhio l'Italia, dall'altra la tiene sotto costante monitoraggio. Servono quindi argomenti convincenti, anche perché, come ha ricordato lo stesso Moscovici, il nostro paese ha già beneficiato di uno sconto da 6 miliardi di euro sui target di bilancio. L'unico spazio che si può trovare è facendo o implementando le raccomandazioni che la Commissione in questa primavera 2015 ha mandato all'Italia, che essenzialmente sono due: nuove riforme strutturali, bisognerà capire quali, e soprattutto accelerare sulle privatizzazioni. Così ci spiega l'europarlamentare Marco Zanni, che fa parte della Commissione Affari Economici. Per Antonio Villafranca, esperto dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, nazionale, tutto si gioca sulla credibilità. È una decisione certamente politica, vale per l'Italia come vale per gli altri stati. Quello che conta è la credibilità, la velocità con cui vengono implementate le riforme e ovviamente la portata delle riforme stesse. Presentate quindi le riforme, la palla come al solito passerà all'Europa, o meglio, come nel caso Grecia, ai paesi più forti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'immigrazione e l'Europa certamente presente, ma lo Stato italiano è pienamente coinvolto da un contributo molto significativo, lo ha detto Jean Arthieu, un co-presidente di una delegazione congiunta delle commissioni bilancio e libertà civili del Parlamento europeo, composta da 18 parlamentari, in questi giorni in Sicilia per valutare l'utilizzo dei fondi comunitari per le politiche di immigrazione e la creazione degli hotspot per l'accoglienza e l'identificazione dei migranti. Le leggi europee salva natura non vanno riviste e corrette, semmai applicate. Questo è il succo del messaggio che giunge da circa 500.000 di europei, con britannici, tedeschi e italiani in testa, che hanno risposto alla campagna online Allarme Natura lanciata dalle principali organizzazioni ambientaliste. La mobilitazione è scattata a maggio scorso, aveva come obiettivo una massiccia adesione alla consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione di due direttive, Habitat e Uccelli, fra le più importanti al mondo in termini di tutela di animali, piante e habitat dall'estinzione. 14:04:05, vi saluto qui Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.